né ho né coscienza che rimorda. E se tu ricordar non te ne puoi, sorridendo rispose, or ti rammenta come bevesti di letea ancoi. E se dal fummo foco s'argomenta cotesta oblivion chiaro conchiude colpa nella tua voglia altrove attenta. Veramente oramai saranno nude le mie parole, quanto converrassi quelle scoprire alla tua vista rude. E più corusco, e con più lenti passi teneva il sole il cerchio di merigge, che qua e là, come li aspetti, fassi, quando s'affisser, sì come s'affigge chi va dinanzi a gente per iscorta, se trova novitate o sue vestigie, le sette donne, al fin d'un'ombra smorta, qual sotto foglie verdi e rami nigri, sovra suoi freddi rivi l'alpe porta. Dinanzi ad esse Eufrates e Tigri, vedermi parve uscir d'una fontana e quasi amici di partirsi pigri. O luce, o gloria della gente umana, che acqua è questa che qui si dispiega da un principio e sé da sé lontana? Per cotal priego detto mi fu: priega Matelda che il ti dica. E qui rispose come fa chi da colpa si dislega la bella donna: questo e altre cose dette li son per me, e son sicura che l'acqua di Letè non gliel nascose. E Beatrice: forse maggior cura che spesse volte la memoria priva fa tal la mente sua negli occhi oscura. Ma vedi uno è che là deriva, menalo adesso, e come tu sei usa, la tramortita sua virtù ravviva. Come anima gentil che non fa scusa, ma fa sua voglia della voglia altrui, tosto che è per segno fuor dischiusa, così, poiché da essa preso fui, la bella donna mossesi e a Stazio donnescamente disse: «Vien con lui!» S'io avessi, lettor, più lungo spazio da scrivere, i pur canterei in parte lo dolce ber che mai non m'avria sazio. Ma perché piene son tutte le carte ordite a questa cantica seconda, non mi lascia più ir lo fren dell'arte. Io ritornai dalla santissima onda rifatto sì, come piante novelle rinovellate di novella fronda, puro e disposto a salire alle stelle. Fine del 33° canto del Purgatorio. Fine del Purgatorio.